Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a voi tutti, cari ascoltatori e ascoltatrici. Noi siamo qui, come ogni domenica, a farvi un po' di compagnia. E intanto saluto il mio partner Antonio. Ciao Antonio. Buona serata a tutti e un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88.70 e 94.60 in FM. Per chi lo desidera c'è la possibilità di seguire il programma in streaming o di scaricare il podcast della trasmissione dal sito bluradioveneto.it. Per la parte musicale questa sera abbiamo Adamo, penso che tanti di voi lo conosceranno, e come ospite abbiamo, che poi la sentiremo per telefono perché è veneziana, la signora Franca Turchetto. Bene, intanto cominciamo con la prima canzone in programma, che è cantata sì da Adamo, come ho detto prima, Canterò. Solo ogni giorno, per chi viaggia e non sta mai fermo, per chi veste di grigio lontano, ma negli occhi ha un campo di grano, per chi dorme in una stazione, una valigia e un cuscino di cartone. Per chi sente una lingua straniera e si sveglia già oltre frontiera. D'inverno, una lacrima bagna un ti amo e una rosa gli punge la mano. Per chi pensa ogni notte a un bambino che ha lasciato in un verde giardino, per chi guarda una fotografia e mi prende la malinconia. Canterò, canterò, anche sfiatato. E Eccoci di nuovo in studio e salutiamo la nostra ospite. Buonasera, la figlia della Serenissima. Buonasera, grazie per il titolo onorifico. Ciao Franca. Ciao Franca, come stai? Stago molto bene. Oh. Bene, mi fa molto piacere. Sì, anche a me. La canzone cantava e mi scrivo. Ben sentiti, fioi. Dopo tanto. E ben ritornati, dai. Dopo tanto, dai. Ciao, mi ascolto. Sì, sì. Con voglio. Va bene. Allora. Come iniziamo? Come vuoi tu. Ascolta, posso avere una piccola parentesi? E essere un scritto della Lucrezia? Va bene. Se ci fa piacere, via. Sì, lei. Sì, la Lucrezia è tuo nipote, sì. No? Diciamo. Lei mi ha dedicato questo scritto spiegandosi, lei, come nasce una poesia. Dato che sei appassionato di poesia, tutti quanti, anche i tuoi ascoltatori. Benissimo. Allora andiamo avanti, se ne tiriamo lunga. Dunque, la poesia è vita senza morte. In principio c'era un'idea, incastonata nelle profondità degli abissi. Poi, dolcemente sale in superficie, muovendosi come una sinuosa sirena dai morbidi capelli e dal canto melodioso. Ecco che affiora, è una perla di mare tolta dalla conchiglia in cui si trovava. Ma è ancora un diamante grezzo che va rifinito e sfaccettato. È una farfalla che vola leggiadra nel campo di pensieri, ma è anche un pungiglione di ape che tocca il cuore nei suoi punti più fragili e sensibili. Ciò che conta è che non muore né oggi né domani né in eterno, quando sarà sorretta dagli infiniti respiri di coloro che l'hanno apprezzata e amata, perché questa è poesia e la poesia è vita senza morte. E pensando al tuo amore per la poesia, ti sono grata per avermi trasmesso e che ho scritto come secondo me può nascere una poesia. Ma la parte più bella non è solo la nascita, ma la sua immortalità, perché le poesie nascono di nuovo ogni volta che le leggiamo, perché possiamo coglierne sfumature sempre diverse, capire le sensazioni e emozioni di chi le ha composte e perché sono portatrici di splendidi ricordi. Grazie a tua Lucrezia. Ah, bella, bella. Degna nipote di cotanta zia. Di cotanta fogaressa. Comunque fare i complimenti. Sì, fare dai, complimenti. Va bene, fuoressa. Allora, tu di cosa ci parlerai stasera? Stasera io parlerò, che è un compito molto difficile da parte mia, sull'isola della Giudecca. Ah, bene. Che è poco conosciuta se non dagli abitanti e da chi l'hanno abitata come me, che sono nata. Ah, bene. Certe cose non le sapevo neanche io e adesso ve le trasmetto. Trasmetto bene. La mia conoscenza. Va bene. Vi faccio una presentazione. L'isola, così piena di storia, non poteva lasciare indifferente un autentico giudechin, innamorato a Sotera, Francesco Basardella, dove a sua famiglia, per necessità del lavoro, è a capodesto frequentare a casa del Leone, era un palazzo, insomma. Mm-hmm. Sta casa era proprietaria del principe di Spagna, Luigi Ferdinando Borbone, e quella della principessa Anastasia, moglie del re Alessandro I di Grecia. Basardella, negli anni, garan curato documenti, fotografie, episodi vissui direttamente, materiale sostanzioso per far pubblicare un libro sulla Giudecca. 10 anni di gran ricerche negli archivi, nelle biblioteche, nei musei, e da questo gran lavoro e amor passo isola è nato sto capolavoro, l'unico fino adesso, che viene a colmare un'importante desmenteganza sulla documentazione veneziana. E bene. Questo è l'autore del libro dove che mi gotoccia tutto quello che vi dico. Bene. Calcolando che questa persona qua era, oltre che il gondolier dei personaggi importanti, reali, principi, regine, chi più che ne ha che ne metta, e faceva anche, ed era tassista, quindi era avuto tempo in più, anche gondolier, diremmo, dei nobili. Sì, sì. E mi sta persona qua, ho avuto il piacere di conoscere. No, cioè, ho conosciuto sì, perché mi dice quello che mi dà e a man per aiutarmi a montare il motoscafo come ho sposato. Bene, reminiscenze che bel, personali. Che bel ricordo, che bel sì, ricordo. Io ho in fotografia, cioè, mi sono tutta cincinata, con i tacchi alti, cioè, tutta felice, radiosa. E allora io per farmi montare come principessa, mi ha offerto la sua mano, mi ha aiutato. Insomma, bene, qua. Bene. Ecco, bene. Questo è importante. Altro che. Adesso vi spiego un po' di questa stessa isola. Dunque, l'isola di Giudecca è una strica di terra circondata da parte del Tramontana dal canale proprio della Giudecca, e invece da parte del Rio è levante dalla laguna. È una panoramica, manco a dirlo, unica e rara come tutto quello che riguarda Venezia. E case che si vede per disegnare qua matita da un particolare artista, e se bei importanti, tutte attaccate in fia, che si tiene a braccio come complici sorelle. È attaccata da otto isolotti, da ponti particolari e dai nomi significativi. Da sotto sti ponti scorre dei piccoli rii che dal canale della Giudecca, sempre, va a negarsi in laguna, servendo le barche da pesca, dove i pescatori andava a pescare pesce fresco e buon. E a parte orientale invece, dove che invece batte il sole a levante, è più bella per la superba panoramica che ancora adesso si può ammirare. Una riviera esposta al sole, piena di verde, di orti, di giardini, specialmente quei che tengo tanto amor, i frati di Accesa del Redentore. Senza contare tutti gli altri, che dopo vi spiegherò, insomma, perché era calcolata monumento nazionale come postura di verde, tra orti, giardini, alberi, frutteti, vigneti, fiori di tutte le sorti. Tutto però per l'Adrio, davanti alla tramontana di Avise esposta al sole. Tanto è vero che i nobili, di una volta, quando chi faceva il suo giro in gondola, gli passava per l'Adrio a Giudecca, gli vedeva tutta sta bella bessa e cominciava a comprarsi i palazzi, a costruire e vivere una vita diversa da quella che viveva per parte della tramontana, i pescatori, gli ortolani, la gente più, diremmo, umile. Capito? Sì, sì. Allora, sto canale della Giudecca, dove che passa le grandi navi, è una misura di 2.684 metri. Ah. È proprio il canale. Sì. È nel centro, profondo 7 metri, però, perciò chi può po' dimostri che ha solo sotto 7 metri di acqua, pescaggio. Pensi che rimenai chi d'acqua e eliche, mamma mia, e mamma che sguaratai al fango, sì. Però è largo 30, è dei 30 metri, diremmo misura standard, però è 70 di profondità all'imbocca del bacino di San Marco, dove che magari è a parte se più larga, cioè è il posto che ciapa, dove c'è il passo Ducal che tu vedi, all'isola di San Giorgio. Uh-huh. E ora è la parte più larga e misura, insomma, è a 70 metri di profondità. Però dopo, quando entra dentro quello della Giudecca, ti vedi che è il canale misura. E quello già era un canale che poteva passare in navi, diremmo quei più piccole, perché ha sempre avuto il passaggio, le navi mercantili, le navi da trasporto che arrivava roba da fuori, che dopo che erano più piccole ed era delle più navi, piccole, certo. Era ciò mercantile, portava grano, frumento, farina, tutto quello che poteva portare. Ecco, questo è una piccola presentazione. Vado avanti? Sì, sì, sì. E adesso cominciamo con la storia, cioè come viene chiamata Giudecca. Dunque, in antico, parliamo sempre in antico, qua. In antico si chiamava Vigano, cioè Vicus, nome da chiara origine latina, che significava anche villaggio. Ah. Dal momento che ancora adesso, ma parliamo di che a volta, avviene considerata dai veneziani un villaggio o quasi un sobborgo, dal momento che si trattava più di pescaori e ortoani. Diventai più numerosi i suoi abitanti e cambia nome, diventando Spina o Spinale, e infine Sinalunga, finindo in Spinalonga, adesso forma spin de pesce, o sì, dai rovetti spinosi che cresceva spontanei. Interessante. Sì. Sta denominazione non è dura tanto, infatti il nome cambia strada, diventando giudaica, voce dialettale giudega o giudicata. Ah, ecco. In giudicata. Giudega, ciò gli ha detto. Sì. In quanto qualche terreno dell'isola sarebbe stato aggiudicato o assegnato a famiglie bandie da Stato Veneto, prima che mandare in esilio e dopo che ha dato tocco di terra. C'erimo a quell'epoca addirittura nell'856. Andiamo alla seconda canzone. Certo. Seconda canzone, Com'ero vecchio. Facevo piccolo per non disturbare la gente, lasciavo lo spazio a chi si credeva importante, e tutti i miei sogni li schieravo nella mia mente, ma oggi mi Eccoci di nuovo in studio, Franca. Eccoci qua. Allora, siamo nell'856. Altra spiegazione, se può suggerire che fosse stata giudicata a ebrei. Da eventi particolari, sti nuclei comunitari ebraici, parchi sia esistì a Venezia, fin dal periodo paleocristiano, addirittura. Addirittura. Quando i profughi da Aquileia stabì in laguna, gada vita a città. I toponimi stessi trovai su documenti dell'undicesimo secolo già parlava di Zueca, notando come già dito la presenza di colonie ebraiche che mercantizzava a Zueca, dove sviluppava i propri traffici da Levante e da Dalmazia. Di ebrei, eh? Un villaggio si sta denominando San Giacomo de Zueca nel Padovan, a Negroponte che apparteneva a Serenissima, dove stava a casa gli israeliti. Porta sto nome, come a Zueca, non so però se si toponimi che usa ancora, è a Zueca de Ferrara, a Terni, un pozzo a Gallipoli, a Brindisi, Trapani e Costantinopoli, e a Giudaica de Atana in Crimea. Sì, forse giudaica, forse sì, ma queste altre non credo. Cioè, ma queste qua fa parte della storia passata. Dunque, anche al sommo Dante si gadegnà, usando la parola giudeca per identificare il cercio di Giuda nella sua Divina Commedia. Massa forte. Credo che arrivo mio. Sì. E a Zea più estesa e vicina è città, separata dal canal a tramontana, e al contrario dalla parte orientale, sempre basata dal sol. E si presenta con eleganza composta, mostrando una fia di paesine, villini, che si specchia stomegosi sull'acqua, circondata da orti, giardini alberai, sia da frutto, fiori, vigneti. Tanto verde, posti di deiscia e quiete, praticai dai patrici nei mesi estivi, quando la riviera della Brenta non era ancora di moda. Qua saltiamo qualche anno. Che c'era 10 cese, 7 che gli apparteneva a comunità religiosa, però gli stai buttare giù dal solito nanarotto di Napoleone. Che c'era diverse accademie filosofiche, letterarie, e asilo per i più famosi e ombrosi poeti, scrittori e pittori a Zueca. Però. Qua saltiamo ancora, Gerimo nell'agosto del 1529. Già sta per Venezia un giorno memorabile perché ha ospitato per prima volta uno dei più grandi geni del Rinascimento che l'Italia abbia mai avuto. È il benedetto Michelangelo Buonarroti. Chiaro. Sì. È il nostro Buonarroti. Quando nel suo periodo più nero è abbandonato su Firenze per aver sentito il gran pericolo che stava cascando nella podestà dei Medici. Un storico dell'epoca, mio nomino, ma non so, un certo Battaggio, riporta queste parole. Nesta isola bagolona, piena di visce, festini, riunioni mondane, aiù a Michelangelo non che garbava più di tanto, ma perché el viveva in solitudine come un eremita, secondo le sue abitudini. Eschivava le conversazioni ritirandosi nel silenzio. E tanto è vero che la signoria, non potendo scondere la sua presenza, ha mandato gentiluomini a fargli visita a nome suo e offrirgli con tanto tutto quello che aveva bisogno. Pensi te, Serenissima, che generosa. Straordinaria come sempre. Sì. Sto atto a dimostrare la grandezza come la virtù di Michelangelo e come l'amor per tutti i virtuosi clarissimi dedichi ai virtù. Che sei di documenti che testimonia, su richiesta del doge allora Gritti, che Michelangelo avesse presentato un progetto per il futuro Ponte del Rialto. Pensati. Una opera di invenzione rarissima come ornamento e maniera, però niente da fare. Non si era più vista sta. Forse, ma in cambio ha avuto l'onore di avere una CAE dedicata al suo nome. CAE Michelangelo, scambiandola, che prima si chiamava CAE del Giasso. Mi per CAE Michelangelo che passavo 4 volte al giorno per andare a casa mia. ciò. Mi non sapevo tutta questa storia, come c'era. Cale Michelangelo Buonarroti o solo Cale Michelangelo? No, Cale Michelangelo. Ah. Ecco. Adesso torniamo un fiade bago. Sì. Mi vedo una roba che non è mia. Non è mia, no, ho trovata in qualche parte. Magari avere neanche l'autore. E descrive, è a Zueca del 1500. Ah. Sì. Ora, sto autore dice, deme un liuto. Una lira, una steca e deme una bella donna se vuoi che vi canta a Zueca del 1500. Deme un veron che varda solo all'orto, dove a Veronica Franco, insieme al Tintoretto, sotto una vigna e un alboreto, gli si è fatto letto. Ecco che torniamo a storia della Veronica. Che sì, la Veronica Franco. Torniamo su. Deme anche a me, dice un'altra, che il fuoco dei peccai fatti sull'erba tenera, qui a de sera, se vuoi chi mi strambotti cambia maniera. Allora è a Zueca, c'era un nido dei sogni, de arte, incoronai de alloro e de bei modei. Ste modei c'era tutte in vena di Mattia e sovrane c'era de loro perché c'era ben vestie. Che scenari! Che pasi non zoada in quei giardini, dove conveniva artisti, letterati in capo e spada, gente zuiva che in contrasto appunto col Buonarroti, gran pittore, gran scultore, anima inquieta che abitava in sta isola de doti come una setta. Non lo interessava, se già era rustico, è di passare un periodo. Un vero artista comunque. Gli artisti sono così, sì. Ma sì. Quasi tutti. Quasi alzava e vile i gran palazzi che teneva accademie, feste e spasci. Quante vittorie in mare intera e quanta peste dentro i lazaretti, uomini, donne e fiori. Moriva miere, muneghe e preti. E ecco che il governo serenissimo davanti a sto flaseo e che il terror che ha fatto un tempio famosissimo al Redentore. E se così che il popolo gioioso che ha creato questa isola è a mezzo notoada di questo mondo. Senza maiore, voglio dire, è a gran festa e a veggia al bacanal col ponte de barche attraverso il canale. Difatti la festa del Redentore. Veggia de da misteri che scoae ne altane, sui balconi, ai rive, in gondola, all'amor sempre portae, per restare sempre vive, bogiose de basi ardenti e de abbracci dentro le barche, e toi parecciae, fra canti, musica e baioni illuminai, e che così avada, festa che si ripete ancora adesso qui so fuori, col suo buon umor, anche se finanze in regresso, e anche se un sbarlefo si fare amor. bello, interessante, sì. Sì, dopo le ori che aveva, diremo, su sti orti, su sti giardini, e abitava, e aveva costruito già, i famosi casini, che non c'era quei brutti, vergognosi. Casotto, casottino. No, era casette piccole, come si chiamava. E ora dice che sempre in questo secolo, diremo prima del 500, prime case pratici, prospettanti lungo il canale, con magnifici giardini, siamo sempre a orti e fiori, i famosi casini. Sta parola va intesa nel suo significato originario, proprio della laguna, quasi sinonimo di villetta. Anche allora c'erano le villette. Sì, perché casini, chiamava casini perché queste abitazioni serviva tanto da onghe di more, cioè se oi affittavo i geraparoni, quando invece a picco e soste gli affittava, specialmente in tutte le stagioni, ma a primaria qui a Bona c'era l'istà. Sì, che dava dei ferri. C'era quasi sempre i paroni, i nobili veneziani, quei che teneva palazzo in città, cioè quei che aveva palazzo in città e aveva anche, diremo, sta specie. Sta di seconda casa. Eppure una gran villa in campagna. Sti strambi ambienti c'era motivo di vita però intellettuale, rappresentata da numerose accademie come quella di Filaretti e di Separati, con interessi per filosofia, scienze naturali, lettere e musica, e siamo sempre a. E cosa dici di giardini terrestri o meglio ancora del paradiso dell'Eden? Che sto paradiso dell'Eden era un giardino favoloso perché ori che faceva anche delle coreografie. Praticamente dove che c'era terra battuta, diremmo erba, e ori che faceva dei chiparecci, che faceva dei viali tutti sistemati con dei sassi particolari, con conchiglie di mare, poi ori che faceva delle robe diverse, faceva scorrere dell'acqua con degli strumenti particolari, insomma una roba tremenda da vederli, finte pareti, dei quadri sempre di natura, dei alberi, insomma sto giardino dell'Eden ha avuto già perfino chiamato, yoga, proclamato monumento nazionale. Allora che c'è tre righe, che dopo vi dico chi ha scritto, poi sì. Tre, e ora dice: vola con gli occhi per questo giardino, che veder lui ti incendierai lo sguardo più a montar che lo sguardo divino. E sto quasi di Dante Alighieri. Però, tanto il paradiso. Se parla di carichi da 90. Ecco. Cioè, questa roba è perché dire: guarda sto giardino, perché ti incendi se ti guardi. Sì. Solo per lo sguardo divino che ha fatto sta bene. Allora aspetta un attimo, Franca, che adesso andiamo alla terza canzone. Sì. La mia vita. Niente della mia vita. Eccoci di nuovo in studio e prima di dare la parola alla nostra ospite abbiamo il consueto siparietto Storia de che altri, e questa volta in lingua portoghese con José Saramago. Veniam enfim, veniam enfim as altas alegrias, as ardentes auroras, as noites calmas, venha a paz desejada, as harmonias, e o resgate do fruto, e a flor das almas. Que venham, meu amor, porque estes dias são de morte cansada, de raiva e agonias, e nada. Vengano infine le alte allegrie, le ardenti aurore, le notti calme. Venga la pace agognata, le armonie, e il riscatto del frutto e il fiore delle anime. Che vengano, amor mio, perché questi giorni son di stanchezza mortale, di rabbia e agonia e nulla. Ed ecco qui la nostra ospite ancora. Ecco, così torniamo alla nostra ospite. Che vi conta le fiabe. Sì. Benissimo. sempre su sto giardino che sarei a lungo da spiegare perché è una roba impressionante. Qua che c'è un piccolo particolare. In testa del giardino, dopo che c'era, si innalzava una elegantissima loggia a pavimenti a fresco, in pitturaico, corridori e stanzette comode dei fiori. In conclusione, si può dire che in questa abitazione che sia sta terra, mar, monte, il pian, la città, la villa, il bosco, la selva, il giardino, e per finire tutto quello che si può regalare e ricreare anima e cervello. Nesto amato giardino, sotto i pergolati, e belle vigne fra le fragranze delle rose e dei branchi gigli della Madonna, è nata una bella poesia scritta da Lady Lipetta, che non mi gara mai, Lindsay, e assada alla parona di casa. Allora sta poetessa che dice a signora A, poesia. Conosco un giardino bellissimo vicino al lungomare. Alti gigli fiancheggiano i suoi ombrosi viali. Il re dei fiori è il giglio. Si estende come un campo di neve fra gli alberi di limoni. Un rosso melograno guarda furtivamente la corona appena battuta del giardino e le vipi formano un tetto che la paura del sole guardasse dentro. Forte solo il vento del sud porta via dolci messaggi nella città. Tutti gli altri fiori sono ridotti a niente e morti di disperazione, perfino le ghirlande di rose rosse languono, non vedendo partecipare alla gloria. È come se gli angeli, prendendole con le mani, fossero discesi dolcemente. Bella. Che era sto campo di G, immenso, immenso, che adesso sta un spettacolo guardato intanto dal profumo che mandava fuori. E che considera il fiore mezzo ancora dei rose, che da besa che le manava sta visual, e rose si vergognava e diventava rosse dopo essere rosse. Anche le rose diventano rosse. dopo andiamo fianti avanti con robe fianti più serie. Guarda, abbiamo che pensé che sti paassi, ste ville, ste robe, i paroni c'era, i granobi veneziani, già i vendramini, i barbaro, i nani, i mucenigo, i foscari, i gritti, i grimani, i pisani, e ognuno aveva il suo paasso sempre con sti orti, con ste robe. E come ospiti diremo qualche dun, perché c'era i Cornaro, sì, il Stato d'Annunzio, re Piero di Jugoslavia, il Papa Pio VII, la principessa Paz, che era sorella del re di Spagna, e un ospite tripolino da Tripoli, e già era ospite al Palazzo Vendramin. Però. Sì. Dopo invece noi, quei più recenti, che già era Rosalba, Byron, l'Arettino, Caterina Cornaro, e a Casati, a ballerina, ecco, Marchesa Casati, che era un artista di teatro, il Bembo, Paolo Sarpi, Casanova, Goethe, George Sand, sì, tutta l'intelligenza. Anche George Sand, che sei. Cosa amoroso, anche serio. Tutta l'intelligenza. Musette. No, Musette. Chi? No, George Sand era Chopin. No. No? Dopo ciò mi era accompagnata da Musette. Ah, ho capito. Ecco. Dopo che sei di particolari, esisteva anche un'Accademia dei Nobili, che porta ancora il nome CAE dei Nobili. Mm. Praticamente il Senato nel 1619 ha affondato in isola col concorso di offerte private l'Accademia dei Nobili destinata all'istruzione dei 40 giovani patrici poveri, però, ti vedi? I conoscenze. Patrizi poveri. Poveri, si sa di essere fiori dei patrici decaduti. Sì, sì, sì. Ricordo. Dunque, che praticamente a 40 giovani, che dopo si arrivai a 60, e il Senato, questa accademia, spendeva ogni anno 5.600 ducati. Non poteva essere iscritto chi che aveva 10 anni, però non doveva superare i 20. Ah. E la direzione è stata proposta nel 1724 dai padri somaschi, che ha messo sia i padri maestri delle classi inferiori, 12 padri laici e sia persone secolari adatti ai servizi. Dopo il 1700 si inserisce la letteratura retorica, dunque è introdotta a scuola di matematica. Il governo, oltre a pagare i maestri e al mantenimento, pensava anche al vestiario destitosi. Andava fuori, sì. Si metteva una pellegrina e dopo che aveva de pano ceste e un abito nero. L'istruzione comportava nella materia religiosa, cioè il timore di Dio, grammatica, umanità, nautica. E in certi giorni particolari era deputato un insegnante estraneo a insegnargli diritto civile, cosmografia, matematica e trattati di poetica. No, cioè, la Serenissima non finisce mai di stupire. Non finisce mai. Incredibile. Dopo che i casini che avevamo detto, e andiamo ancora un fiorentino più avanti, se vi interessa. Certo. Aspetta, in campo Redentor. Se partio Gabriele D'Annunzio, questa squadra, però, con tre mas, per la famosa beffa di Bucari. Ah, di Bucari, sì, e se partio, adesso non vi spiego tutta la storia perché la serie è lunga, però su sto campo, se partio con suo amico Ciano, qua mi con una bella fotografia, che gli è davanti alla porta della casa di pena per i maschi, cioè Giudecca, che è ancora a casa di pena maschile, cioè come una specie di carcere, ma lui lavorava dentro. Praticamente è a casa, è riverita a casa di pena per i maschi, però è origa cancea, i schi e i gassà il masch. Per evocare la ragione ora dicono che praticamente su sto campo Giudecca, che se, proprio dove che siete dentro in campo A, che sia sta un coso, io ho messo un cippo che ricorda il discorso, ora che c'è da una parte e che c'è un bel leone di San Marco, no? Sì. E dopo che c'è tutti i nomi dei ori, tutte le Greciano, Luigi Lucio, tutte a parte dell'equipaggio, che c'è tutti i nomi con nomi indirizzi, e insomma non andiamo avanti, se no vogliamo massa avanti, che sta anche a questo, l'impresa dei Bucari. Ti vedi, va bene, aspetta un attimo che adesso Franca ci fermiamo due minuti per ascoltarci un'altra canzone. La tua storia è una favola. Ecco, seguitemi. Avevo per me solo un angolo di cielo, avevo la mia notte, avevo le mie stelle, avevo una rosa, era tutto il mio mondo, una rosa timida, rosa color di pelle. Thank you. però sembri sincero nella tua ingenuità. Vai avanti con la tua storia per curiosità. Un giorno la mia rosa ingenua domandò: mi tolgo le spine, mi porti via con te. La vidi tanto bella, ma quando alzai la mano svanì la bella rosa, il mondo si fermò. No, caro amico, la mia storia non è fatta. Eccoci di nuovo in studio, Franca, sì? A te la parola. Sì, ascolta, una rubita in furia, che c'era tante di attività qua a Giudeca che vanno a nominare tutte, se ne roba incredibile. Beh, nomina qualcuna. Sì, qualche duna che c'era, vara, è fabbrica di scorsieri, ci lavorava i curami. Ah. Che c'era l'arte della stampa, gli sì? Faceva le corde, gli faceva il merletto. Bello. Che c'era nell'industria del saum. De cere, de appego, a fabbrica de reogi, produzione giornaliera 1500 reogi completi. Oh, e questa è la fabbrica de Jungas. Ah, ecco, la famosa, sì, Jungas, esattamente. De reogi, dopo faceva sì. Spuete per le macchine d'accusa e anche spuete belliche. Tante robe. Tanto è vero che questo è il periodo dell'ultima guerra, penso sia, siccome che c'era un passo, un grande, grande, sta fabbrica de reogi, ed è tutto pitturato del rosso veneziano, i cadaveri fatto mini guisti, però lo sentivo, una specie di murales sui pareti per far vedere che a Pippo l'aeroplano che passava l'avanguardia che non venisse a bombardare questa fabbrica, sì. Io ho fatto finta che sia orti case. Ma ecco, ingegno straordinario. I veneziani, massa bravi. Dopo che c'era, appunto, dopo che c'era Erion, un altro stabilimento dei tessuti di pura lana. Dopo c'era Fortuny, che faceva i tessuti stampai, 64 cantieri navai, una fabbrica di birra, dei liquori, Pissolotto produceva serie di strati e tinture infuse a uso benefico. Dopo che c'era Pinaro dei liquori, Gianoa che aveva liquori in caqueo, canne da zucchero, un pastificio Osagia che stava di passo ai miei balconi, che c'era la fabbrica dei cementi, dei mattoni, dei cascine, manifattura di tabacchi, fonte o di sal, 200 magazzini di biale, perché c'erano i magazzini proprio della biale, perché, sì. Fabbrica di candè, fabbrica di corde, fabbrica di tutto. Ma fabbrica di candè. Ma ho anche cantieri navai, persino dei pianoforti. Mica aveva de tutto. Allora no? C'erano le pianole, c'erano il cembalo. Sì, sì, anche una fabbrica di veri, però ti vedi godito prima che andassi in decadenza, oltre che Venezia e a Giudeca, che attività che c'era. La diversificazione è proprio una roba straordinaria. Dopo che c'era la fabbrica del giasso, che faceva le forme del giasso, poi veniva a caricarle e portava via i suoi peati, portava sui alberghi, dove c'era il ghiacciaio, le osterie. Adesso venimo, secondo tempo, venimo al favoloso monumento che è il Movin de Stucchi. Straordinario, sì. Don Paroletto in Caparpino. Sì, sì, certo. Allora dice che erano i primi dell'Ottocento. E a Giudecca c'è per forza perché c'è stata in crisi di guerra, no? La disoccupazione, dopo invece ha ripreso il lavoro. Crescendo quando il governo di Napoleone ha fatto sparire una buona parte delle chiese, conventi e ha industrializzato l'isola, progettando perfino di far passare a ferrovia. Pensi te, anche su questo. E anche un tunnel sotto il subacqueo doveva fare, una specie di... tutto mamma che mia, c'era ingegnoso. Io volevo disfare Venezia, sì. Ma siccome che Venezia è fatta così, io una che ha accomodato. Perché non poteva fare quello che voleva. Io ho solo va e basta. Perché io l'intenzione sua era anche di fare di gran viali alberati. Ma dove li faceva? Appunto. Dove li faceva? Tanto è vero che ha buttato giù in piazza San Marco, che dove che c'è il museo Corera adesso, che c'era la chiesa di San Geminiano del Sansovino, no? Sì. Tu l'ha buttata giù come chiesa. E ha fatto di sopra sulla scalone una gran sala da baio, pareo, piso ospiti, che non l'ha mai doparata. E fuori che c'era di graneri, deposito grano, ha buttato un caquei e ha fatto sì i giardinetti reali, ma uno che ha fatto proprio un bel niente, poi si è tolta via e ha disfatto a mesa. Mesa benissimo. Ma ti immagini con tutta la... E che non ha visto da Dio a Giudecca, se non andava a buttare via tutti io. Insomma, che ha fatto strage. Ebbene, insomma, ora dice, è così che viene costruita la più importante fabbrica dell'Ottocento, il Moin Stucchi, imponente paronde a panoramica veneziana, gran fabbrica di Piera e prota a memoria al palazzo del Parlamento inglese. Cioè, così ti viene da che parte della laguna, che ti entri in Canale a Giudecca, la piazza Roma, ti te vedi sto popò del monumento appunto paragonato al Parlamento inglese. Mamma mia, qui è la sua forma. Sì, ecco. Parlamento inglese. Sì, sì, che porta a memoria al palazzo del Parlamento inglese. Westminster. Ecco, è stato al posto del convento dei Santissimi Biagio e Castaldo, che Napoleone ha fatto buttare un capello. Appunto, nel 1800, sora sto terreno, nel 1883, è stato fondato il primo Moin, che non c'era come adesso, un semplice gigante fatto di mattoni che somogiava, che scominciava a funzionare a vapore con una capienza attiva di 500 quintali al giorno, però, portando in Italia il moderno sistema di Amazena a cilindri. Nell'86 questa produzione si è passata a 1500 quintali, cioè che aumentava. Triplicata, sì. Che c'era bisogno di slargarsi. Nel 1887 il Paronga ha fatto mettere vicino al Moin un gran silos, con la portata di 80.000 quintali di grano. Straordinari proprio, sì. Ma ti rendi conto che chi non sa queste robe che fa proprio impossibile? Perché c'era anche quando c'era attivo il primo 900, che avevo messo a famiglia di mio marito che lavorava là. E se fotografavi fuori chi partirati, corsari con la bandana in testa, quei vicini e i era veneziani, pochi le uomini che pareva armaroni. Va bene, dai. Vorrei dire, insomma, che un semplice gigante mattonico, ecco, i 1500 è il Paronga, ha fatto mettere vicino il Moin, sto gran silo, fuso tutto insieme, lo fuso in una sola grandiosa opera di stile gotico moderno, dominata da due attori a 10 piani. Però, sì. E Madonna, la produzione cresceva sotto gli occhi di tutti, fino ad arrivare ora a 2500 quintali. Incredibile. Al giorno. Con scorre di anni, a forza del vapore, a forza del vapore, massa spazio e a corrente elettrica, e a fabbrica si ingrandisce, cioè io che dà a carica col vapore e con la corrente elettrica. Sì. Il gran arrivava al Moin da nave coi carichi dei porti del Danubio, dal Mar Nero, da America e anche dall'Italia. Per nettarlo occorreva sparpirlo in vari silos, gran pozzi fondi, 22 metri. Ti tenerai mamma conto? Mia, 22 metri. Sotto. Ma cose, se sa bene, dura poco. Il soffiaffimento che comincia nel 1910, quando Giovanni Stucchi, proprio il Paron, è stato accoppato un operaio, però non si sa perché. E questa opera? Gelosia, chissà. Non so, no. E a dita, la gatta di manso figlio, a mezzo peso, la gatta formata in società operazione, in conclusione l'attività, e definì così. Sì, sì, insomma. Durante la guerra lui resta del tutto paralizzato. Insieme ai stabilimenti si è innalzato posti di osservazione a difesa antiaerea, essendo già sta nel 1943 requisito dai truppe tedesche e tutto quello che aveva dentro, che veniva mangiato anche a Stalzi. Mamma mia, sì, sì. Questo fallimento totale, che c'era un muin, biscottificio, pastificio, però... e si sbanca un'altra pagina della storia. Tra mesi, iniziative, proposte e progetti se ne conclude per niente. E restare a fiaba della città diventando un gran casson da disfare in piazza San Marco. Sto gran casson però è storia di diventare a fiaba della città e a fine di un casson da butta giù, eh no, a Venezia sbarca l'Agacam. Ah. Parlo di anni fa, adesso sì, non so sì, come... Beh. Questo è il titolo di un giornale del 26 gennaio del 1980. E dice che El Can discendesse da Maometto e 49° imam Algera e sta per comprare il Moin per 150 miliardi di lire, concluso anche a restauro. Su 240.000 metri cubi di edificio si prevedeva un albergo di uso da 300 camere da letto e una centinaia di appartamenti, centro congressi da 1.500 o 2.000 posti in un'area per attività culturali. Questo gran progetto sarà il futuro dell'isola, ma staremo di nuovo a vedere. Per il momento non si dice. No, io ho fatto, ma sì. Adesso le robe che si da passare. Eh beh, mai. Sì, sì. Altra curiosità è a Giudecca che ospita anche un cinevillaggio, la Scalera Film. Questo è sconosciuto del tutto a molti, credo. Sì. Sì. Allora, go, spazio. Sì, sì, un altro paio, un minuto e mezzo. Ecco, sì. Dunque, Cinevillaggio alla Giudecca, oggi in italiano, penso di Oeslo, sognarono Hollywood. Venezia assunse il ruolo di capitale del cinema italiano. L'avvicinarsi delle truppe alleate nei pressi di Roma obbliga i nazisti e i repubblichini a trasportare al nord le attrezzature cinematografiche di Cinecittà. Vinse Venezia, scelta città che difficilmente avrebbe potuto essere bombardata, in più offre un gratuito e affascinante set naturale. Il nuovo cinevillaggio, sotto la guida di Luigi Freddi, allora duce del cinema italiano, si installa nei padiglioni della Biennale Giardini, dove viene attrezzato un teatro di posa, altrimenti, assieme a sale di montaggio, si incrociarono e di coreografie. Nel contempo, alla Giudecca, proprio alle spalle del mulino di stucchi, da Drio, da parte della laguna da Drio, la Scalera, importante casa di produzione rumana, riceve da vecchie stalle, che resta equivalente, una piccola ma efficiente struttura produttiva. Da Roma arrivano verso la fine del 43, cioè 1900, anche gli attori, tra cui i fascistissimi Osvaldo Valenti, Luisa Ferida, i registi Piero Baerini, Flavio Cassavara, Mario Safico, Giorgio Feroni e Fernando Cerchio, in un concentrato del cinema italiano minore dell'epoca. Nel febbraio del 1944 la Cines, dando vita alla narrazione di fatto cronica di Valerio, inizia l'avventura veneziana che conclude con l'aprile del 1945 con poche glorie in attivo e una quindicina di titoli, ne ha avuto proprio sto gran successo. E qui dobbiamo per forza concludere, rimandando a una prossima puntata di questo racconto straordinario e inesauribile. Ringraziamo e ti invitiamo per la prossima. Ringrazio Viati dello Spettacolo, un cordiale saluto a tutti quanti, buonasera, buonanotte. Anche una roba, complimenti vivissimi a tutti gli ospiti che portate tutte le domeniche, perché mi ascolto e mi agodo. Bene. E anche a qualche ritardo. Bene, bene. Ciao allora, a tutti. Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, anche ciao. Anch'io saluto e come al solito dico ciao, ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri,